Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La morte di Eluana Englaro compatibile con il protocollo, la procura prova a chiudere le polemiche. Oggi intanto al Senato comincia la discussione sul testamento biologico, tra poco nostro ospite il relatore. Le tangenti gonfiano ancora i costi della politica e nella sanità c'è poca trasparenza, la Corte dei Conti lancia l'allarme. Tornano i talebani, attacchi kamikaze sincronizzati a Kabul contro i palazzi del governo e domani arriverà l'inviato del presidente americano Obama. Vincono di misure moderate, dica di Made in Israele, ma quel che si prospetta è un governo di estrema destra. Il 1 marzo il vertice straordinario per l'Europa contro la crisi. Pirelli pronta a tagliare i posti di lavoro, forse 2000 a rischio, consumi elettrici a picco, mai così bassi da 34 anni. Italia sconfitta dal Brasile, senza appello, gli azzurri si consolano solo con i numeri, l'Italia ancora prima della Seleção nella classifica FIFA. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Oggi il Senato in commissione inizia dunque la discussione del testo di legge sul testamento biologico. Intanto oggi la procura di Trieste ha chiarito che la morte di Eluana è avvenuta in modo compatibile con il protocollo per l'interruzione dell'alimentazione. Di questo però parleremo tra un po'. Prima gli attacchi di oggi in Afghanistan. Sì, perché sono stati durissimi, una serie di attentati sincronizzati e coordinati nella capitale Kabul proprio alla vigilia della visita di Richard Holbrooke, l'inviato speciale del presidente americano Barack Obama, e in un'area in cui lo stesso Obama ha detto la situazione è molto difficile. E allora ci ricostruisce l'accaduto Laura Bettini. Buongiorno, sì, il primo obiettivo stamattina è stato un edificio dell'amministrazione penitenziaria nel nord della capitale afghana. Un terrorista, anche se altre fonti dicono fossero due, si è fatto esplodere tra la folla uccidendo una decina di persone. Un po' più tardi un altro terrorista kamikaze è stato individuato e ucciso dai poliziotti di fronte al Ministero dell'Educazione. Intanto un altro gruppo penetrava all'interno del Ministero della Giustizia uccidendo diversi impiegati e dall'interno dell'edificio questo gruppo ha ingaggiato uno scontro a fuoco con la polizia. Bloccato all'interno c'era anche il ministro della giustizia, del quale peraltro non si hanno ancora notizie. Solo due ore più tardi la polizia e l'esercito afghano hanno ripreso il controllo della situazione, ma al prezzo di altre vittime tra agenti e civili. Le forze internazionali invece, a quanto si apprende, non sono intervenute. Mentre ancora si sparava, un portavoce dei talebani ha rivendicato gli attacchi a varie televisioni e non è un mistero del resto che Kabul sia il principale obiettivo dei talebani adesso. Gli assalti hanno preceduto, come dicevate, di poche ore la visita nella regione di Richard Holbrooke, inviato speciale del presidente statunitense Obama, che come è noto intende rafforzare la presenza americana nel paese. Questo è tutto per il momento. Grazie Laura Bettini. Afghanistan dunque nel mirino dei terroristi alla vigilia della visita dell'inviato americano nel paese, diceva appunto Laura Bettini, ma intanto in Medio Oriente l'attenzione è puntata anche su un'altra situazione. Importante il risultato delle elezioni in Israele, vittoria per Tzipi Livni con il partito centrista Kadima, ma di misura sul Likud che adesso rivendica il diritto di formare un governo di destra. Da Gerusalemme l'inviato Ugo Tramballi. È ancora difficile stabilire almeno un paio di scenari credibili e possibili, dato il risultato finale di queste elezioni in cui Tzipi Livni e Bibi Netanyahu sono così vicini. Certamente quello più possibile è forse un governo di unità nazionale nel quale ci siano tutti e quattro i primi partiti arrivati in fondo alle elezioni, e cioè Kadima, Likud, Israel Beiteinu e alla fine anche il Partito Laburista. Sarebbe una maggioranza solida, sarebbe una maggioranza possibile. Il problema di questa maggioranza sarebbe però avere un programma politico, perché ogni elezione deve essere due o tre cose: prima di tutto un partito vincitore, poi una maggioranza che governi e poi un governo che abbia un programma che possa essere applicato. Questi quattro partiti, due decisamente di destra, uno di centro, un altro di sinistra, comincerebbero a litigare sin dal primo giorno della formazione di questo governo, soprattutto con un processo di pace che gli americani imporranno con tutta la loro forza sul tavolo. Altre possibilità non ci sono, se non un governo di estrema destra, guidato dall'Likud, ma insieme a forze della maggiore, della più estrema destra israeliana, anti-araba, antipace, ma questa possibilità probabilmente isolerebbe in maniera molto grave Israele, non solamente dal principale alleato americano, ma anche dall'Europa, dalla diplomazia internazionale e dal resto del mondo. E grazie a Ugo Tramballi. Le reazioni ovviamente non mancano nel mondo arabo e non a caso vede nero la stampa palestinese. Addio all'illusione della pace. Con questo titolo Al-Quds al-Arabi sintetizza la delusione della stampa araba sul voto israeliano che ieri ha premiato i partiti della destra a livelli mai raggiunti prima. Le grandi testate di proprietà saudita come i panarabi Al-Sharq al-Awsat e Al-Hayat si limitano a riportare risultati mantenendo un taglio neutro nei titoli, ma il giudizio della stampa anti-occidentale è netto. È una scelta di guerra, scrivono in tanti. Anche se caratterizzati dal pessimismo, sono proprio i giornali palestinesi a fare i commenti meno bellicosi. A vedere del buono nell'esito del voto è Al-Quds al-Arabi. Un governo di estrema destra, scrive il direttore, smaschererà la natura aggressiva di un popolo, quello israeliano, violento e razzista, che rifiuta la pace e la convivenza pacifica che l'opinione pubblica mondiale chiede con forza. Adil Fattah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E voltiamo pagina, veniamo alle vicende italiane. Cominciamo con la vignetta del Messaggero di Marassi, che mette insieme diverse cose, il caso Eluana ma anche la politica italiana. Il dialogo secco è: la Costituzione è ancora attuale, lo stabilirà l'autopsia. E noi della vicenda Eluana già ve l'abbiamo detto, parleremo più avanti. Andiamo invece però a Roma, dove è stato inaugurato questa mattina l'anno giudiziario della Corte dei Conti, e come sempre si scopre molto sotto i riflettori. Tra l'altro ci sono anche le conseguenze di un futuro federalismo fiscale, ma ci sono anche molti allarmi. Allora, ci racconta tutto Paola Cavadi. Sì, buongiorno. È un quadro di sperperi e mala amministrazione quello emerso dalle relazioni del presidente della Corte dei Conti Tullio Lazzaro e del procuratore generale Furio Pasqualucci. Truffe nei settori farmaceutico e sanitario, in quello della gestione dei rifiuti e dei contributi comunitari, ma soprattutto fenomeni di corruzione che fanno lievitare a dismisura il costo delle opere pubbliche, pregiudicando l'immagine della pubblica amministrazione. Ma sentiamo un passaggio della relazione di Lazzaro. Ma è altrettanto necessaria anche la massima trasparenza in ogni agire della pubblica amministrazione. Là dove essa manchi, il cittadino percepisce la funzione pubblica come un qualcosa di estraneo, di diverso da sé e dal proprio mondo. Da qui la disaffezione verso le istituzioni e anche verso i centri della politica. Male questo, oscuro e sottile, che può costituire un rischio mortale per la vita stessa della democrazia. A proposito dell'attuazione del federalismo fiscale, il presidente della Corte dei Conti ha assicurato un attento monitoraggio, ma per farlo, ha aggiunto, è necessario che il Parlamento conosca in modo certo e obiettivo i dati finanziari. Lazzaro ha poi lamentato in tempi di crisi economica l'applicazione di tagli generalizzati alla spesa pubblica. Sarebbe più opportuno, ha aggiunto, un esame voce per voce dei bilanci per identificare i tagli da fare senza penalizzare la funzionalità dell'amministrazione. Nel 2008, secondo il procuratore generale Pasqualucci, sono stati chiesti risarcimenti per danni pari a 1.700.000 euro. Le condanne definitive sono state 561. Pasqualucci poi, in un passaggio della sua relazione, ha stigmatizzato l'eccessivo ricorso degli enti locali ai contratti di finanza derivata, fenomeno preoccupante, ha aggiunto, di cui non si conosce ancora l'esatta entità. E da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Paola Cavadi. E va avanti l'esame del disegno di legge per la sicurezza. Tra mille polemiche, l'ultima in ordine di tempo, l'accusa del governo rumeno di xenofobia ad alcuni provvedimenti del governo italiano, tra cui naturalmente anche il DDL sicurezza. Oggi però ad avanzare dubbi l'Unione Camere Penali, l'associazione che raccoglie gli avvocati penalisti. Il segretario dell'Unione Camere Penali, Ludovica Giorgi, al microfono di Simone Spezia, chiarisce. Il giudizio generale sul decreto dell'Unione delle Camere Penali è un giudizio fondamentalmente negativo, perché è un decreto che ha un taglio illiberale, che ha un taglio autoritario, che riporta il nostro sistema processuale, il nostro sistema penitenziario, direi il nostro sistema delle regole del vivere civile, lo riporta indietro di molto molto tempo. Quali sono le norme che vi lasciano più perplessi? Quella norma che estende la presunzione di pericolosità sociale per tutta una serie di reati. È noto che il giudice apprezza di volta in volta se vi sia una pericolosità sociale e se quindi prima di una sentenza si debba e si possa legittimare una misura cautelare. Qui invece questo giudizio del giudice viene sostituito dal giudizio del legislatore, quindi si dice per certi reati la pericolosità sociale è una pericolosità sociale che si presume. Si lascia molto perplessa la norma sull'inasprimento del regime duro del 41 bis, ci lascia molto perplessa la norma che esclude i benefici penitenziari per coloro che sono condannati per violenza sessuale o comunque reati a sfondo sessuale. E se per timore di essere denunciato in alcuni ospedali italiani si assiste ad un calo di richieste di assistenza medica da parte di immigrati clandestini, così almeno raccontano in questi giorni i medici, sentite questa storia accaduta in Emilia. Tutto a posto ragazzi, Italia-Marocco, ce lo giochiamo a calcio, si arriva ai 10. Dai, calmo, i giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno preso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. Che magia quando il calcio, come in Marrakech Express, diventa una zona franca per risolvere con una partita sulla spiaggia tensioni di ben altra natura. Non stiamo parlando d'Italia-Brasile, ma di una notizia, all'apparenza più piccola, che arriva da Reggio Emilia e che però dà bene il segno di questi tempi, così dominati dalla paura e dall'insicurezza, dove anche la regola del calcio, cioè di una zona di tolleranza, non vale più. Il fatto: carabinieri scoprono su un campo sportivo un gruppo di egiziani che giocano a calcetto senza permesso. Già la cosa suona strana, cosa vuol dire infatti giocare senza autorizzazione? Che non pagavano, che non avevano prenotato. Chi gioca a calcetto sa che non sono contenziosi questi da carabinieri. Comunque, una volta intervenuti, scoprono che dei 20 calciatori solo due sono in regola col permesso di soggiorno. Per gli altri o le manette o la procedura di espulsione. Certo, tutto giusto, per carità. Ma che brutta aria, espulsi per una partita di calcetto. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Non l'ha neanche toccato! Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E fin qua questa storia raccontata dal nostro Dario Ceccarelli, però parlando di calcio non possiamo non parlare della brutta figura ieri sera della Nazionale Maggiore, sentiamo. C'è chi parla di Carnevale di Rio a Londra, chi di lezione, chi, con arditi giochi di parole, descrive un'Italia brasata dal Brasile. Insomma, l'Italia del calcio, che, chiusa in tutta fretta la parentesi Donadoni, aveva riabbracciato con Marcello Lippi il suo condottiero iridato, il giorno dopo lo schiaffo di Londra si riscopre da campione del mondo a inseguitrice. Negli occhi rimane soprattutto un primo tempo in cui verde e oro corrono e incantano, trascinati dalla voglia di rivincita di un Ronaldinho già in forma derby e dall'estro di Elano e Robinho. Coppia gol del Manchester City che fa piangere due volte Buffon. E a poco serve aggrapparsi al golletto annullato a Grosso sullo 0-0 per un fuorigioco più che dubbio. Nella ripresa, fuori i deludenti Pepe, Montolivo, Gilardino, Di Natale, dentro il peso di Toni e l'estro di Giuseppe Rossi, le cose sono andate un po' meglio, come conferma uno dei veterani azzurri, il milanista Zambrotta. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, insomma, con poca personalità, poca grinta, poi credo che nel secondo tempo siamo entrati in campo con più voglia, potevamo raggiungere anche il pareggio, però insomma, per cancellare il primo tempo qualcosa di buono abbiamo fatto poi nella seconda parte. Il 2-0 finale però non si discute, per il momento i più forti sono loro, sperando che la lezione di Samba sia servita in vista di Sudafrica 2010. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. La carreggiata a sud della A3 tra Rosarno in provincia di Reggio Calabria e Sant'Onofrio Vibo Valentia è stata chiusa al traffico a causa di uno smottamento e di un nuovo rischio frane. Ieri la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo. Nei prossimi giorni attesa una nuova perturbazione e tra l'altro non si escludono nuove nevicate. Alle 13:19 minuti le notizie di oggi. La causa della morte di Eluana Englaro è uno scompenso cardiocircolatorio compatibile con il protocollo previsto per l'interruzione di alimentazione e idratazione. Parole del procuratore generale di Trieste, nessuna accelerazione, nessun reato, dice così la procura. Intanto prende il via la discussione sul testamento biologico. Oggi in Commissione Sanità del Senato comincia l'esame del testo base. Tra poco ai nostri microfoni il relatore. Inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei Conti, l'allarme del presidente Lazzaro, i costi di opere pubbliche denuncia si gonfiano per le tangenti e sul federalismo fiscale dice faremo un attento monitoraggio e poi aggiunge. Ma è altrettanto necessaria anche la massima trasparenza in ogni agire della pubblica amministrazione. Là dove essa manchi, il cittadino percepisce la funzione pubblica come un qualcosa di estraneo, di diverso da sé e dal proprio mondo. Da qui la disaffezione verso le istituzioni e anche verso i centri della politica. Male questo, oscuro e sottile, che può costituire un rischio mortale per la vita stessa della democrazia. Tornano i talebani, una serie di attacchi sincronizzati e coordinati sono stati compiuti da kamikaze nella capitale afghana Kabul, colpiti uffici governativi e ministeri. Domani arriverà l'inviato speciale del presidente americano Barack Obama. In Israele vittoria di misura di Kadima alle elezioni legislative. La compagine guidata da Tzipi Livni ha superato di un seggio il Likud di Benjamin Netanyahu, ma di fatto proprio il Likud ha le maggiori possibilità di formare un governo con un'alleanza coi partiti di destra estrema. Salvi i contributi ai giornali di partito inseriti nel pacchetto editoria del decreto mille proroghe su cui il governo ha disposto la fiducia in Senato. Verrà votata alle 13.30, ve lo racconteremo in diretta. I consumi elettrici a gennaio hanno segnato una flessione dell'8,5% rispetto allo stesso mese del 2008. È la maggiore flessione da 34 anni a questa parte, dall'agosto del 75. Un dato che riflette la situazione economica. A gennaio, infatti, molte aziende hanno ripreso a lavorare solo il 12 del mese. Un uomo dato alle fiamme nella notte a Roma, sulla Casilina, periferia est. La vittima ha precedenti e gravato dai debiti. Per ora non si esclude alcuna ipotesi. Lui ha raccontato di essere stato aggredito. Dopo la bagarre di lunedì sera e messo da parte il disegno di legge sull'obbligo della nutrizione artificiale all'indomani della morte di Eluana Englaro, la Commissione Sanità del Senato inizia oggi a discutere il testo sul testamento biologico. Un testo intitolato Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Considera nutrizione e idratazione forme di sostegno vitale. Si legge atti eticamente deontologici. Logicamente dovuti. Quindi non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento o testamento biologico questi trattamenti, come nel caso di Eluana? La domanda la giriamo a chi ha redatto il testo, al suo relatore Raffaele Calabrò del PDL, che è nostro ospite. Allora, è così? Stanno in questi termini le cose? Esattamente, e le spiego meglio. Rappresento idratazione e alimentazione e quello che viene definito sostegno vitale, e questo lo dice tanto il testo di legge quanto lo diceva anche la mozione che ieri ha presentato in aula il PD. Quindi è una visione generale, che non si tratti di terapie e quindi come tale non possono essere inserite o non inserite, messe o tolte, non si può fare una scelta di quello che non è terapia. È sostegno vitale perché togliere idratazione e alimentazione significa togliere la vita a una persona. Non sarebbe successo il caso di Eluana Englaro, non sarebbe successo anche per un altro motivo, perché è previsto nel testo di legge che queste dichiarazioni debbono essere assolutamente scritte e documentate, non possono essere basate le valutazioni solamente su valutazioni testimoniali. E invece su che ipotesi si concentra questo testo di legge per quanto riguarda il concetto, per esempio, di accanimento terapeutico? Cioè in quali casi una volontà scritta della persona può identificare, insomma, un caso di limitazione delle cure? In tutti i casi in cui parliamo di cura. Le dichiarazioni anticipate consentono, rispettando il dettato della Costituzione, che ciascuno possa decidere se vuole curare o meno una patologia. Come lei oggi va dal medico, il medico le dà indicazione di fare un intervento chirurgico e lei può valutare se lo ritiene opportuno o meno, e se non lo fa sa che accelera un suo processo di storia naturale, però legato alla patologia, cioè per quella malattia lei morirà un po' prima. Alla stessa maniera lei nelle dichiarazioni può dire questo, non può togliere, ripeto, quello che invece non è cura, non è terapia. Un'ultima cosa, onorevole, quali potrebbero essere i tempi per l'iter, insomma, per questa legge, considerato che in Italia, non so esattamente, ma insomma si è parlato di 2-3 mila persone forse che potrebbero in qualche modo essere anche interessate, anche se naturalmente la legge non potrà essere retroattiva? Certo, pensiamo e speriamo che i tempi siano molto brevi. La decisione dell'Aula del Senato di due sere fa, che ha determinato che il provvedimento nella Commissione durerà due, massimo tre settimane, ci consente di immaginare che a fine di questo periodo, di due o tre settimane, la legge passerà dalla Commissione in Aula. L'ISA l'ha calendarizzata presto e non dovrebbe essere un tempo ulteriormente lungo. E grazie allora a Raffaele Calabrò del PDL, dicevamo relatore del testo sul testamento biologico che da oggi ufficialmente comincia il suo iter al Senato. E noi cercheremo di capire anche se e come si sono dati un regolamento gli altri paesi europei. Cominceremo un viaggio a partire da domani nel giornale radio delle 7. E intanto questa mattina la consegna della relazione sull'autopsia condotta proprio su Eluana Englaro da parte dei periti nominati dalla Procura di Udine. Sentiamo. Nessuna anomalia. Eluana Englaro è morta per arresto cardiocircolatorio conseguente a disidratazione, una causa compatibile con il protocollo previsto per l'interruzione di alimentazione e idratazione, così come avevano deciso i giudici della Corte d'Appello di Milano. La parola definitiva, dopo sospetti ventilati o espressi di un'accelerazione o di anomalie nei protocolli, è arrivata dal procuratore generale di Trieste, dopo un incontro con il procuratore della Repubblica di Udine. Si chiude così un altro capitolo della vicenda, dopo il risultato dell'autopsia eseguita ieri sera a Udine nell'ospedale Santa Maria della Misericordia sul corpo della donna. Ora rimangono solo da aspettare i risultati degli esami chimico-tossicologici, per i quali saranno necessari dei giorni. Intanto l'Ordine dei Medici di Udine ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei medici che hanno assistito la donna, un atto dovuto, spiegano dall'Ordine. E si apre un altro capitolo. È atteso per oggi il nulla osta del procuratore della Repubblica per il trasferimento del corpo di Eluana a Paluzza, il paese della Carnia di cui è originaria la famiglia Englaro e dove la donna sarà sepolta. Non ci saranno funerali, ma una benedizione in forma privata, ha fatto sapere il padre, privatissima. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. In aula al Senato va avanti ovviamente il lavoro della politica. Oggi in discussione c'è il decreto mille proroghe. L'ultima novità che si è appresa e che sono salvi i contributi ai giornali di partito, sono stati inseriti all'ultimo nel pacchetto editoria. Proseguendo. Il senatore Ceccanti ha chiesto di intervenire, il senatore Boscetto ne ha facoltà. Ecco le ultime, le battute finali, la discussione in aula. Le 13:30 circa, comunque tra pochissimo ci sarà il voto finale, ve lo faremo sentire in diretta. E adesso un argomento alla Indiana Jones, Anna, ma quelli veri, cioè gli appassionati di storia, perché stiamo parlando della scoperta, riscoperta dei resti del castello crociato di Shaubak in Giordania. È una fortezza che è riemersa dalle sabbie medio orientali grazie all'impegno anche dell'Università di Firenze. Che succede da giugno? Potrete risparmiarvi di andare in Giordania, basterà essere d'Italia e da giugno i suoi reperti saranno in mostra alla Limonaia di Palazzo Pitti. Da Petra Schobach, archeologia di una frontiera, la mostra che in estate verrà ospitata a Palazzo Pitti attraverso i reperti storici recuperati in 20 anni di ricerche della missione archeologica dell'Università di Firenze, sarà ripercorsa la storia con una chiave di lettura particolare, la frontiera. Elemento di pregio della mostra sarà il palazzo della dinastia di Saladino, il più grande del mondo arabo di quell'epoca. Il curatore della mostra, Guido Vannini, ci svela i tesori che saranno proposti ai visitatori anche con sofisticate soluzioni multimediali. Una serie di capitelli o di arredi architettonici dall'epoca romana all'epoca bizantina fino appunto all'epoca medievale, diciamo XII-XIII secolo, di grande qualità e che provengono, quelli di Shaubak e alcuni da Petra, dai nostri scavi, altri da scavi di missioni americane, svizzere, tedesche e dei giordani naturalmente. Il sito archeologico in Giordania era stato abbandonato da 500 anni praticamente dall'arrivo dei crociati ed ora è stato riscoperto e valorizzato con una forma di collaborazione innovativa. Sentiamo ancora il professore Guido Vannini che ha guidato anche la missione. L'aspetto innovativo è proprio la collaborazione paritetica con i giordani, nel senso che noi ci occupiamo prevalentemente della ricerca, loro della conservazione, ma con una consulenza da parte nostra, della valorizzazione, quindi come dire utilizzando le ricadute della ricerca anche per la vita contemporanea, quindi per l'aspetto turistico, espositivo, di comunicazione. La mostra sarà visitabile dal 19 giugno al 30 settembre. Ubaldo Cianciulli, GR24. Il Sole 24 Ore, Firenze. 13.35 minuti, le notizie di oggi extra large. Prende il via la discussione sul testamento biologico. Oggi in Commissione Sanità del Senato comincia l'esame del testo base, che però non prevede i casi, il caso dell'interruzione dell'alimentazione. Il relatore Raffaele Calabrò del PDL così poco fa ai nostri microfoni. Pensiamo e speriamo che i tempi siano molto brevi. La decisione dell'Aula del Senato di due sere fa, che ha determinato che il provvedimento nella Commissione durerà due, massimo tre settimane, ci consente di immaginare che a fine di questo periodo, di due o tre settimane, la legge passerà dalla Commissione in Aula. L'ISA l'ha calendarizzata presto e non dovrebbe essere un tempo ulteriormente lungo. La causa della morte di Eleana Englaro è compatibile con il protocollo previsto. Parole intanto questa mattina del procuratore generale di Trieste, che ha esaminato il dossier dei medici. Nessuna accelerazione, nessun reato, dice la procura. Inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei Conti. Nella sanità e nella pubblica amministrazione c'è poca trasparenza. L'allarme del presidente Lazzaro. I costi di opere pubbliche, denuncia, si gonfiano per le tangenti. E sul federalismo fiscale dice: faremo un attento monitoraggio. Tornano i talebani. Una serie di attacchi sincronizzati e coordinati sono stati compiuti da kamikaze nella capitale afghana, Kabul. Colpiti uffici governativi e ministeri. Almeno 26 morti. Domani arriverà l'inviato speciale del presidente americano Barack Obama. In Israele vittoria di misura di Kadima alle legislative. La compagine guidata da Tzipi Livni, che sentiamo in sottofondo, ha superato di un seggio il Likud di Benjamin Netanyahu, dunque potrebbe guidare un governo di coalizione, ma di fatto proprio il Likud ha le maggiori possibilità di formare un governo con un'alleanza di partiti di destra. Il governo chiede per la 12ª volta la fiducia su un provvedimento, è il mille proroghe, tra poco il voto, ve lo racconteremo in diretta. I consumi elettrici a gennaio hanno segnato una flessione dell'8,5% rispetto a un anno fa. È la maggiore flessione da 34 anni a questa parte, un dato che riflette la situazione economica. A gennaio molte aziende hanno ripreso a lavorare il 12 del mese con una chiusura prolungata per la crisi. La carreggiata sud della A3 è chiusa al traffico per uno smottamento, un nuovo rischio frane. La Protezione Civile ha emesso un nuovo allerta meteo. Nei prossimi giorni potrebbe tornare ancora anche la neve. E come sentivamo anche poco fa in diretta, l'Aula del Senato è impegnata sul voto del maxi emendamento al disegno di legge mille proroghe. Sentiamo in sottofondo il senatore Gabriele Boschetto del Popolo delle Libertà che sta parlando. Tutto congrui alla fine di questo intervento, per tutto quello che ho detto, posso concludere. E naturalmente la discussione sta andando avanti, ma andiamo a capire anche che cosa contiene il DDL mille proroghe. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è atteso a minuti il voto di fiducia chiesto dal governo ieri sera sul maxi emendamento presentato dallo stesso esecutivo e che sostituisce per intero il testo del decreto mille proroghe. Ricordiamo che il provvedimento dovrà poi essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, dalla Camera, entro il 1 marzo, pena la sua decadenza. A differenza di quanto si ipotizzava nel testo del maxi emendamento, non sono confluiti gli incentivi per l'acquisto di auto e moto previsti dal decreto varato la scorsa settimana dal governo. Fra le novità invece alcune riguardano il mondo dell'editoria, in particolare c'è l'estensione della cassa integrazione anche ai periodici e la garanzia dei fondi per il settore per il 2009. Viene poi semplificato l'accesso ai contributi pubblici per i giornali di. Altra novità riguarda l'organico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che dal 1 gennaio sarà di 450 unità. Slitta a fine 2009 invece il divieto degli arbitrati sugli appalti pubblici e quindi rinviato al 31 dicembre il termine che in precedenza era stato fissato per il 30 marzo. Viene poi messa in liquidazione la SCIP, la società che ha gestito la cartolarizzazione degli immobili pubblici, immobili che torneranno così agli enti che ne erano proprietari e che potranno venderli direttamente. Nuove regole sono in arrivo poi anche per l'autonoleggio, con l'obiettivo di differenziare maggiormente questo servizio da quello effettuato dai taxi. Queste le principali novità, in questo momento lo abbiamo sentito nell'aula di Palazzo Madama, sono in corso le dichiarazioni di voto, le opposizioni hanno annunciato il voto contrario, hanno anche criticato il governo per aver nuovamente fatto ricorso alla fiducia, la 12ª volta in questa legislatura. Per il momento è tutto linea a Milano. Grazie Andrea Viale. Sentite l'aula del Senato, si stanno preparando al voto i senatori proprio in questo istante, e allora quando ci sarà il risultato ve lo daremo in Nel frattempo veniamo a un altro capitolo, vale a dire la crisi. Il primo marzo è stata fissata la data per la riunione del vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Europa per esaminare la situazione. Intanto in Italia arriva un nuovo segnale. I consumi elettrici a gennaio hanno segnato una flessione dell'8,5% rispetto allo stesso mese del 2008. Una flessione così non c'era da 34 anni, dall'agosto del 1975. Un dato che riflette la situazione economica. A gennaio molte aziende hanno ripreso a lavorare solo il 12 del mese, con una chiusura prolungata proprio per la crisi. È un dato che si connette con quello di ieri, il crollo della produzione industriale nel settore dell'auto, meno 48%, e la crisi dell'auto però ha riflessi anche in altri settori, come per esempio quello dei pneumatici. Tant'è che oggi il gruppo Pirelli scopre le carte del piano industriale che viene presentato alla stampa. Si parla di un riassetto che comporta anche tagli e un possibile accordo con Continental. Paolo Piacenza, dalla sede della Bicocca, buongiorno. Sì, buongiorno. Qui a Milano Bicocca è in corso la conferenza stampa che chiude la presentazione del nuovo piano industriale del gruppo Pirelli 2009-2011. Le parole usate dal presidente Marco Tronchetti Provera sono state razionalizzazione, trasformazione, rivoluzione verde. Parole dietro le quali si celano la concentrazione delle attività del gruppo su pneumatici, filtri antiparticolato, immobiliare, un aumento di capitale da 400 milioni di euro per la società immobiliare del gruppo Pirelli Real Estate, che sconta maggiormente la crisi, una crescita della componente verde delle attività destinata a salire dal 20 al 40% in tre anni, investimenti per circa 700 milioni di euro, ma anche tagli al personale in Europa, almeno 400 addetti di Pirelli Real Estate e circa 1500 per Pirelli Tire. I conti 2008 registrano gli effetti della crisi, anche se la posizione del gruppo, ha detto Tronchetti Provera, è solida. I ricavi consolidati sono sostanzialmente in linea con il 2007, mentre il risultato operativo al lordo degli oneri di ristrutturazione per Pirelli Tire e soprattutto per Pirelli Real Estate è sceso l'87% a 44 milioni di euro. Pirelli non distribuirà dividendo quest'anno, ma ha detto il presidente Marco Tronchetti Provera, rispondendo agli analisti, conta di tornare al dividendo l'anno prossimo. Altro tema, quello delle partecipazioni. Tronchetti ha indicato tra quelle cedibili la quota di partecipazione in Telecom, il cui valore sarà svalutato a 1,14 euro per azione, ma anche CI Optical e HTL Submarine, mentre non saranno toccate le quote in portafoglio di CAI, Eurostazioni, RCS e Mediobanca. Infine, non si è parlato di un eventuale acquisto della concorrente Continental, che comunque viene considerato un boccone troppo grosso per Pirelli. È tutto. Grazie allora al nostro Paolo Piacenza, e salutiamo Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Come sempre lo sguardo sui giornali stranieri. Giulia, oggi ci sono due curiosità interessanti che ci proponi. Sì, la prima l'ho scovata su Time, Time Magazine, che forse anche per questa generale crisi dei giornali diventa sempre più sottile, però non si sgancia sempre di più dall'attualità e cerca delle storie un po' più curiose. E questa settimana fa un approfondimento su questo nuovo programma di software che si chiama AutoTune, questo nuovo software, che serve per intonare qualsiasi cantante. E dice Time, avrete sicuramente notato che se una volta ogni tanto qualcuno sembrava steccare, anche magari in una registrazione, a un occhio naturalmente molto attento, adesso sono tutti perfetti, da Britney Spears ai rapper, oppure sbagliano apposta ed è chiaramente stonano apposta, ma stonano a perfezione. È merito di questo software AutoTune. Naturalmente la domanda è come faranno poi quando dovranno fare una performance dal vivo, o verrà usato anche lì con uno stuolo di genietti del computer che corregge in tempo reale le performance, oppure finalmente steccheranno. Grazie a Giulia Crivelli. E noi andiamo a Berlino, sono i giorni del festival Impegno Tolleranza Situazione Internazionale. Nei film in programmazione anche Attenzione alle donne. Cinema della tolleranza è luogo privilegiato d'incontro tra le culture. Se ne parla a Berlino nel film franco-inglese London River di Rashid Bouchareb, che ha sullo sfondo gli attentati del 7 luglio 2005. Applauditissima Brenda Bleethyn, signora inglese che arriva dalla provincia alla ricerca di una figlia scomparsa dopo le bombe. Da un altro attentato, quello dell'11 settembre, parte il documentario di Michael Winterbottom, The Shock Doctrine, che si immagina a ritroso la storia vista con gli occhi della dottrina liberista del Nobel americano Milton Friedman e di quella di Naomi Klein. Critica l'America anche da The Messenger di Oren Moverman, che affronta il disastro iracheno dalla parte degli americani, senza alcuna indulgenza, straziante e realistico, camera a mano. e poi Donne, tra i film che spiccano nella selezione berlinese. C'è Michelle Pfeiffer in Cherie di Stephen Frears, splendida cortigiana cinquantenne nella Parigi della Belle Époque, seduce un ragazzo molto giovane. Melodramma. 25 years. She is an enigma. Giving, caring, beautiful, intelligent. Stop. In La vita privata di Pippa Lee, film di Rebecca Miller, fuori concorso, un'altra cinquantenne cambia vita dopo aver dimostrato di poter essere una casalinga perfetta. What's going on? My husband has been having an affair with a good friend of mine. So it's official, nobody needs me anymore. Si vede pure in un ruolo piccolo piccolo Monica Bellucci, un lampo d'Italia in questa Berlino che non ci ama. Dopo il maestro Ermanno Olmi, regista del documentario Terra Madre, Gianni Di Gregorio ha presentato il suo pluripremiato pranzo di Ferragosto, che si prepara a conquistare le sale tedesche. Sì, vai Vicky. Sì, Maria. Ritorneremo ancora di nuovo. Certo, a me quando volete. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi. La causa della morte di Eluana Englaro è compatibile con il protocollo previsto, parole del procuratore generale di Trieste. Intanto prende il via oggi la discussione sul testamento biologico in Commissione Sanità del Senato. Inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei Conti, l'allarme del presidente Lazzaro, i costi di opere pubbliche si gonfiano ancora per le tangenti. Tornano i talebani, una serie di attacchi sincronizzati nella capitale afghana Kabul, colpiti uffici governativi e ministeri. Domani a Kabul arriverà l'inviato speciale del presidente americano. In Israele vittoria di misura del partito di centrodestra Kadima alle legislative, ma il Likud ha le maggiori possibilità di formare un governo alleandosi con l'estrema destra. Un uomo dato alle fiamme nella notte a Roma è caduto attorno alle 2 sulla Casilina, periferia est, e per ora non si esclude alcuna ipotesi. Italia sconfitta dal Brasile nell'amichevole di ieri, gli azzurri si consolano con i numeri. Italia ancora prima della Seleção nella classifica FIFA dedicata alle nazionali. Un bruttissimo episodio di cronaca a Roma e non del tutto chiaro. La scorsa notte un 42enne è stato infatti trovato bruciato nel 90% del corpo, delle parti del corpo. I carabinieri non escludono che l'uomo con diversi problemi economici abbia tentato il suicidio, ma le uniche parole che ha detto prima di essere sedato per le ustioni erano riferite ad un gruppo di giovani che gli avrebbero dato fuoco. Ci sentiamo abbandonati, è il messaggio lanciato con una lettera aperta dal Comitato Studenti e Genitori del Liceo Scientifico Darwin di Rivoli, vicino Torino, dove ricorderete per il crollo di una parte del soffitto lo scorso novembre morì Vito Scafidi, di 17 anni. Non sono ancora iniziati i lavori, dicono, dall'incidente e nessuno è intervenuto, ma oggi dalla preside arrivano notizie rassicuranti. Eccola al microfono di Adriana Fracchia. Il 29 gennaio ci è stato dichiarato dall'assessore che non c'erano i soldi per concludere i lavori sugli altri piani. Il 6 febbraio l'assessore ha dichiarato invece di averli e quindi in questo lasso di tempo è nata questa lettera, questa richiesta. Noi abbiamo notizia che i fondi ci sono, devo dire è una dichiarazione ufficiale che l'assessore ha fatto pubblicamente. Io non ho visto scritta una variazione di bilancio in questo senso e forse ancora non è nemmeno stata fatta, però c'è una promessa formale, ufficiale. Dire ci sentiamo abbandonati non è forse... No, no, sicuramente noi vogliamo che gli enti che preposti si attivino per risolvere la nostra situazione, lo vogliamo fortemente, lo chiediamo e siamo convinti di averne diritto. Naturalmente, questo è un punto che tengo a precisare, essendo questo uno splendido edificio, ma un edificio d'epoca, un edificio storico, ha infinite zone di criticità. Un conto sono i lavori urgenti per risolvere le situazioni a rischio e un conto è fare un intervento che sia il più possibile radicale per risolvere davvero ogni tipo di criticità. Noi siamo stati profondamente toccati da quanto è accaduto e abbiamo proprio anche l'esigenza psicologica di sapere che tutto sarà perfetto quando torneremo. Quindi questo è un po' lo stato d'animo che c'è alle spalle di tutto ciò. Questa dunque è l'intervista di Adriana Facchia alla preside del liceo Darwin. Adesso parliamo di libri. Noi due come un romanzo è l'ultimo di Paola Calvetti, pubblicato da Mondadori. Tutto ruota attorno ad una libreria che vende solo romanzi d'amore, libreria creata dalla protagonista Emma, come spiega la stessa autrice intervistata da Alessandra Tedesco. Emma è una libraia, ex traduttrice simultanea, che a un certo punto della sua vita decide, come molte cinquantenni, che anche se non lo decidono lo pensano, di cambiare vita. Il destino le va incontro, per cui lei eredita una cartoleria dalla zia e decide di trasformare questa cartoleria in una libreria, che è sempre stato il sogno della sua vita, come ha scoperto il sogno di molti. In questa libreria si incontrano poi diversi personaggi, quali per esempio? Beh, innanzitutto Alice, l'assistente libraia, che ha 30 anni, ha un contratto a termine, è laureata in antropologia, decide però che fare la libraia è il suo destino, e quindi Alice porta nella libreria la visione di una trentenne, sia sull'amore, sia sulla tecnologia, sia sui metodi di vendita. Poi ci sono i clienti, e i clienti di Emma sono di tutte le età. In tutto il romanzo c'è un rapporto epistolare fra Emma e un suo amore di gioventù, Federico. Che cosa si scrivono in queste lettere? Che genere di relazione c'è fra i due? Federico capita per caso in libreria, la vede, ma rivederla dopo 30 anni lo frena nell'andare al bancone e a salutarla. E allora lui le lascia un post-it in un libro col suo numero di telefono e lei trova il coraggio e lo chiama. Si rivedono per una cena, poi lui riparte per New York perché sta lavorando al cantiere della Morgan Library e lui decide di aprire una casella postale al Central Post Office di New York e le chiede di scriversi attraverso questo arcaico sistema di comunicazione. E esattamente 11 mesi dopo questa prima lettera, lui le chiede di incontrarsi e di rivedersi. E termina qua questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio, a coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. L'appuntamento, come sempre, domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.